sé yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Vorrei avere carne attiva, mente lucida e sensi vigili per poter praticare contemporaneamente tutti i vizi capitali, anzi vorrei praticarli tutti e otto, perché ce n'è un ottavo che va oltre i sette che noi conosciamo. Questa vorrà essere una mattina viziosa. I vizi capitali sono l'anima degli inserti estivi di un'infinità di riviste, un'infinità di settimanali, un'infinità di giornali femminili. Quando devono riempire le pagine l'estate, fanno i sette vizi capitali, facilissimo. Si prendono sette vips e a ognuno si attribuisce un vizio capitale. La lussuria si attribuisce di solito a qualcuno, che ne so, come Signorini, come la Parietti, qualcuno che richiami l'attenzione sulla sua viziosa carnalità, perlomeno nella accezione pubblica, non necessariamente poi concretamente incarnata nella sua vita privata, e si fanno dei bellissimi inserti, così per sette settimane si va avanti e i redattori possono andare tranquillamente in ferie. Questa mattina mi è venuta una profonda ispirazione uscendo dalle nebbie di una nottata piuttosto faticosa, passata in un locale pieno di reliquie, pieno di amici avvinazzati, perché ho letto un annuncio sul il tamburino degli avvenimenti culturali a Roma, che alla Biblioteca Angelica, quindi luogo che penso che sia ammantato di sacri soffi, di palpitio di ali arcangiolesche, si apre questo pomeriggio una mostra sui sette vizi capitali. Quindi non mi sembrava occasione migliore per parlare questa mattina della contaminazione tra vizi capitali e ostentazione di prova rettitudine e di adesione inconfessata ad ogni dettame religioso. Guardate, i giornali sono pieni nei titoli, nelle pagine della polemica lancinante del crocifisso nelle aule scolastiche. Sembra veramente preoccupare profondamente tutta la nostra classe politica. Sembra che la società improvvisamente si è accorta di non poter fare a meno dei crocifissi attaccati al muro. Quando io penso, vi dico il mio profondo e modestissimo pensiero, che se uno ha quella profonda, viscerale, sentita e condivisione che quel crocifisso fa parte della sua visione spirituale, dell'adesione a un credo religioso, ovunque esso sia, sia spiritualmente nel suo cuore, sia appeso a una catenella al suo collo, sia in un santino dentro il suo messale, il suo libro di scuola e via dicendo, cambia veramente poco. Però visto che siamo così attenti nel conservare la tradizione religiosa, vediamo questa mattina quanto siamo attenti ad osservare quelli che sono i dettami che ci imporrebbe quella religione che così apertamente e platealmente diciamo tutti, a cui diciamo tutti di appartenere, come immancabile senso profondo dell'Occidente che noi popoliamo. Beh, quanto siete viziosi, o per quanto battete voi l'essere viziosi. Pare che i sette vizi capitali ancora siano piuttosto presenti, anche se mutati dalla visione dantesca che li collocava in gironi infernali, con delle terribili pene, con dei contrappassi lancinanti rispetto alla caduta che essi provocavano. In un sondaggio fatto dalla rivista Maxim sembra che la regione più viziosa dell'Italia sia Lombardia, soprattutto per la lussuria, perché è la terra che ospita il maggior numero di locali per scambisti, la gola e l'invidia. I siciliani sono i primi nell'ira, seguiti dai calabresi e friulani, mentre a sorpresa il primo posto dell'avarizia va all'Emilia-Romagna. Quanto la saggezza popolare vorrebbe questo vizio da sempre appannaggio dei liguri, invece è di tutt'altro tipo, perché i liguri sono particolarmente attivi anche nella lussuria. Gli accidiosi sono i basilischi, ma questo è noto, c'è un bellissimo film della Vertumüller, forse il suo primo film, I Basilischi, che mostra proprio l'accidia di questa regione, dove non accade nulla. I basilischi erano questi ragazzi che negli anni 50 passeggiavano avanti e dietro lungo le strade del paese. Finalmente un giorno arriva la diva del cinema, una bellissima donna che potrebbe portarsi loro a cambiare vita, ma i basilischi, essendo accidiosi, non si muovono dal baretto del loro paese e rimangono lì a passare inghiottosamente la loro vita. Accidia, Nulla è così insopportabile all'uomo come essere in pieno riposo, senza passioni, senza faccende, senza svaghi, senza occupazioni. Egli sente allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E subito sorgeranno dal fondo della sua anima il tedio, l'umor nero, la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione. Blaise Pascal, Pensieri. Ira. L'ira è una breve follia. Quinto Orazio Flacco, Epistole. Noi abbiamo usurpato e tratto le definizioni prese da pensieri illustri di personaggi del passato, del presente, forse del futuro, dei vizi capitali, dalle didascalie di questa mostra che vi ho annunciato, che mi ha interessato, che è dell'artista Carlo Previtali, Vizi Capitali, un artista che l'ha rappresentato plasticamente, iconograficamente. Voi come lo immaginate? Il vizioso appartenente ad ogni categoria di vizi. Come lo avete accanto? Come lo incarnate il vizio capitale? Qual è il vizio capitale che più vi piace perseguire, partecipare, e collettivamente, da soli, insomma, figlioli, come lo fate, quando lo fate, in che maniera lo fate, quante volte lo fate? Avarizia. L'avarizia è sempre in punto di morte. Tutte le cose per essa si trasformano nel fuscello a cui si attacca nell'angoscia dell'agonia. L'avarizia vede dappertutto il fondo della cassetta. Per essa il mondo è logoro fin dall'inizio. È sempre al verde. Walter Benjamin, Ombre corte. Superbia. O superbi Christian, miseri lassi, che della vista della mente infermi, fidanza avete nei retrosi passi, non v'accorgete voi che noi siam vermi. Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio. Svegliatevi e date un vostro contributo a questa viziosa mattinata, perché se non c'è una pubblica esposizione gloriosa, gioiosa, catartica del proprio vizio capitale preferito, diventa una mattinata noiosissima. 800 24 00 24, quanto siete viziosi, qual è il vizio che voi preferite viziosamente praticare e quanti viziosi, se avete questa fortuna, perché ne vedo sempre meno in giro, avete occasione di frequentare nel corso della vostra giornata. Gola. Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Antelme Brillat-Savarin, Psicologia del gusto. Invidia. Tutti i vizi, Sancho, contengono in sé qualche allettamento, ma quello dell'invidia non contiene che disgusto, rancore, rabbia. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia. Lussuria. La lussuria è una belva irritata dalle sue catene e poi lasciata andare. Tito Livio, Storie. 800 24 00 24, cominciano le prime confessioni dei viziosi, lentamente, sommessamente, ma decisamente scrivono su Facebook. Chiara: ecco che essere lombarda oggi mi rende fiera e lussuriosa. Scopre questa mattina l'ascoltatrice Chiara da Facebook di poter partecipare apertamente alla propria lussura interiore essendo lombarda. Barbara: l'ira è una breve follia. Perfetto. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno. Io mi sono portato il mio filosofo della scienza personale in questa trasmissione perché deve innanzitutto Stefano chiarirmi una mia perplessità. Ho in mano il catalogo della mostra di Carlo Previtali, vedo che i vizi capitali sono 8, ce n'è un ottavo, le vanitas. Le vanitas che probabilmente sono a un certo punto cadute come un ramo secco da un albero, ma perché Stefano? La storia è lunga. In realtà erano 8 e poi sono diventati 7. Originariamente il primo elenco dei vizi risale, almeno convenzionalmente, a Evagrio Pontico, un monaco e teologo del IV secolo, che tra l'altro si era trasferito dall'Asia Minore in Egitto e poi si era dedicato per anni allo studio delle crisi spirituali narrate nella Bibbia. Si racconta che uno dei motivi per cui fuggì dall'Asia Minore per recarsi in Egitto era proprio una tentazione amorosa dalla quale voleva tenersi. Quindi dalla lussuria lontano. Fuggiva. Esattamente, fuggiva dalla lussuria. E lui stirò il primo elenco. Che è il più vizioso dei vizi, il più praticato, è quello, il vizio per eccellenza. È il vizio per eccellenza. Ma sta attento, perché lui stilò questo primo elenco dei vizi e li elencò dal meno grave al più grave. E qual era il meno grave? E l'elenco era questo: gola, lussuria, per l'appunto, quindi secondo, quindi non era grave. Non gravissimo nella sua percezione, avarizia, tristezza, ira, accidia, vanagloria e superbia, quindi erano 8. E il parametro di questa classificazione... La tristezza quale vizio sarebbe? La tristezza è un malanimo che allontana dal mondo, ti fa chiudere dentro. Allora te non stesse. Si parlava di depressione psichica, non si, non parlava, si parlava di depressione come di psicofarmaci, vedi, quindi esatto. Era un vizio. Era. Era sì, è sostanzialmente un vizio che... Perché, cioè, colpa tua se sei triste. Non è una malattia. Sì, ma la ragione è questa, perché il parametro che giustifica questa classificazione era giustificato in questo senso. I vizi erano gravi quanto più implicavano una loro fissazione sull'io. Qualche tempo dopo, invece, Papa Gregorio li ridusse a 7, perché la vanagloria e l'accidia assomigliavano molto alla superbia e alla tristezza. E in compenso inserì l'invidia. Fa una nuova classificazione, riordina per gravità questi peccati, diciamo così, dell'animo umano, ma il parametro cambia, non è più la fissazione di questi vizi, appunto, sull'io, ma è quanto questi vizi allontanano dall'amore di Dio. Guarda caso, il più pericoloso, quello da tenere più lontano dalla nostra personalità, diventa la superbia, come atto di tracotanza verso Dio, che invece è immagine di amore a quale non ci si può rivolgere. L'antica con nessuna... ibris nei confronti degli dèi. Esattamente, l'antica ibris viene riletto come nuovo parametro, come il vizio più grave, perché allontana più degli altri, perfino più della lussuria, da quel Dio invece al quale dobbiamo avvicinarci con amore e incondizionatezza di ecco, sentimenti. Ecco, questo cambio di parametri di gerarchia dei vizi, come lo vedi? Perché è interessante, perché la prima classificazione è quanto nuoce un comportamento, una pratica rispetto alla possibilità di astrazione, di allontanamento dal vincolo della natura umana per la trascendenza, quindi è una lettura molto più spirituale. La seconda quasi volessero essere un vincolo nel rapporto con una divinità che sembra lontana, sembra distante, sembra iconograficamente rappresentata, che potrebbe arrabbiarsi, quindi c'è questo Dio a cui bisogna rendere il conto di qualcosa. Quindi si ricambia la classifica dei vizi. Sì, a mio parere... Ancorché in negativo, in questo slittamento si nota lentamente il prender forma del concetto di Dio. No, nella riscrizione dei vizi umani si va lentamente ridefinendo il concetto di Dio, della sua potenza e della sua bontà, e quindi dell'atteggiamento che noi dovremmo manifestare nei suoi confronti. Il primo è più una quasi rilettura tra lo psicologico e l'antropologico, che oggi forse diremmo evemeristico. Invece il secondo è quasi un ritratto in negativo di Dio, e questo è interessante. È una sorta di ricetta per la salvezza. Esattamente. Cioè, se tu vuoi star bene con la tua anima, devi stare attento a queste cose. Esattamente. Secondo, c'è qualcuno che ti giudica, con cui devi fare i conti, quindi devi stare attento a non fare queste cose. 800240024, torniamo a parlare di quanto i vizi pesino sulla nostra stanca e fallace carne con Manfredo. Manfredo, buongiorno. Ciao Gianluca, buongiorno. Sei un vizioso? Abbastanza. Allora, fammi l'elenco, secondo te, nella pratica o nel desiderio di praticarli, dei tuoi vizi. Quale sarebbe il primo? Allora, sicuramente il più importante, il primo, l'accidia. Amo stare a non far nulla. Cioè sei scoglionato radicale. Scoglionato dalla mattina alla sera. E vabbè, questo cioè, mi piace stare a guardarmi bellico e non fare nulla dalla mattina alla sera, anche se purtroppo mi tocca correre. Questo però annulla la possibilità di praticare qualsiasi altro vizio. Se stai lì non fai niente. Sì. L'accidioso in realtà non è un vizioso, si salva da tutti i vizi, praticandone uno soltanto. Però sono anche eroso, a bestia, mi incazzo come una iena. Ah, e poi? Questo è il secondo. Secondo, poi vabbè, sono un amante della buona tavola e della cucina. Gola bestia, perché tanto... Dopo esserti arrabbiato, esserti stravaccato, aver mangiato, che altro fai? Incazzato come una iena, mi mangio un salamino di cinghiale a morsi, godo come un crone. E quindi hai già... Una buona parte... Soddisfatto anche la tua lussuria mangiando. Beh, c'è anche la lussuria da quell'altra parte, purtroppo in questo caso è più difficile da soddisfare. Vabbè, pazienza, per fortuna così si salva la tua anima. Poi... No, però ogni tanto per fortuna. Vabbè, quelli sono fatti personali. Poi non mi ricordo quali altri ci sono. Ecco, uno dei pochi. L'avarizia. Quindi... Ecco, l'avarizia no, non sono avaro, anzi, proprio al denaro non do... Infatti sono pieno di debiti, perché al denaro non do valore. Quindi, tutto sommato, gioiosamente pratichi dei vizi che in realtà non ti danno problemi alla coscienza. No, francamente no. anche perché al limite danno problemi al fegato e allo stomaco. Il problema è, secondo me, Manfredo, poi sì? Gli ospiti che verranno ci conforteranno, che non sentiamo più come vizi o come colpe quelli che erano scritti negli antichi libri, Stefano, no? Sì, il problema è questo proprio, è la modificata percezione della colpa, ma anche tenendo conto delle vecchie modalità di intendere i vizi. Per esempio, Tommaso d'Aquino farà un ulteriore salto, riterrà tutti i vizi ugualmente colpevoli. Però andiamo a vedere che cosa. L'acidia era un esempio che fa Tommaso dell'acidia, era quella che colpiva, secondo lui, i monaci alle 4 del mattino, che non vedeva sufficientemente zelanti nell'atto di rivolgersi a Dio nella preghiera. Noi lo riscriveremmo in un calo ipocondriaco tipico delle prime ore del mattino, quando ancora non abbiamo fatto colazione. Quindi bisogna stare attenti a intendersi. Diamo, no? Una ragione fisiologica. Diamo allora una ragione fisiologica, ma poi intendiamoci, quanti saremmo ancora disposti a definire l'acidia nei termini di Tommaso, cioè un'iperattività di amore verso Dio alle 4 del mattino. Allora, visto che abbiamo capito una cosa finora, che i vizi capitali sono in totale sovrascrittura, si sovrascrivono. Come passa il tempo, si sovrascrivono nella loro gravità, nella loro percezione, anche nella loro possibilità di essere praticati, ma anche nell'iconografia che li rappresenta. Andrea D'Agostino è un critico dell'arte, un giornalista, storico dell'arte, che è il curatore di questa mostra di Previtali che ha suscitato questa mattina la mia attenzione. Andrea, buongiorno. Buongiorno. L'artista che tu presenti, è difficile parlare di opere d'arte alla radio, ma proviamo a raccontarlo. Rispetto alle classiche iconografie dantesche, infernali, giottesche, dei viziosi con i diavoli, con i forconi che li infilzano dentro il fuoco, con tutte le possibili terribili, martirizzanti torture che vengono fatte per averli praticati. Quest'artista come vede i vizi capitali? Io ho davanti la copertina del catalogo, che c'è il lussurioso, che non a caso l'hai messo sulla copertina del catalogo, che è quello che ispira più attenzione. È un essere androgeno con il rossetto, potrebbe essere quasi un trans di marazziana frequentazione, circondato da una sorta di selva, di apparato venoso, quindi sta quasi per scoppiare. Questa carne così attraversata dal vizio e dalla lussuria, che sembra ormai non rispondere più a nessuna regola, e guarda con uno sguardo sprezzante, completamente calvo, per manifestare la sua natura ambigua. Ecco, come li rappresenta l'artista i vizi? Beh, Previtali è uno scultore bergamasco e ha scelto di raffigurare ogni vizio portando all'eccesso le sue peculiarità, per cui l'esempio che facevi della lussuria è una figura ovviamente vistosamente truccata e involgarita, ma anche osservando le altre sculture, ad esempio la gola è raffigurata come una donna grassa e gonfia fino all'eccesso, l'ira è tutta colorata di rosso, come se si stesse per sgretolare, per esplodere appunto, e ancora l'avarizia è raffigurata come un uomo con tante mani addosso, che si stringono addosso e quindi dà l'idea del possesso, dell'egoismo più bieco, eccessivo. Si tratta di una serie di sculture, una per vizio, realizzate con una tecnica abbastanza originale, ovvero la ceramica raku. Lui ha preso spunto da tecnica giapponese con cui venivano realizzate le stoviglie per la cerimonia del tè. Ogni scultura quindi sarà cotta nel forno e poi, quando la temperatura raggiunge 1000 gradi, viene estratta e messa sottoterra, in modo tale che quindi che raggiunge un suo processo di raffreddamento sottoterra. L'effetto che vedevi in realtà venoso, il cosiddetto craquelé, che viene quando poi la scultura viene tirata fuori. Beh, io ci vedo anche una sorta di fantastica e meravigliosa metaforica rilettura. I vizi devono passare attraverso il fuoco e devono essere sotterrati, quindi pur nella praticare una tecnica innovativa, nuova, singolare, singolare poi rappresentata in un luogo che ha la definizione di luogo angelico, comunque riesce l'artista a far passare gli vizi per le stesse fiamme infernali per cui li faccia passare anche il buon Dante, il buon Giotto e tutta l'iconografia classica. Certo. Email melog@radio24.it. Melog 2.0 800 24 0024 vi avevo chiesto, parlatemi dei vostri vizi. Devo dirvi, mi dispiace dirlo, cari amici del mio pubblico, siete degli schifosi conformisti. Perché tutti avete accusato come vostro vizio preferito la lussura. La lussura è il meno colpevole dei vizi, tutto sommato, anche se oggi è il più celebrato, anche se oggi il laico moralismo generalizzato pone la lussuria come al centro di tutta la necessaria catarsi sulla classe politica, sul comparto sociale, sulla coscienza nazionale. E tutti mi parlano della lussura come loro vizio. Io penso che la lussura sia un vizio nel momento in cui uno piacevolmente la pratica. Una volta praticata passa la voglia. L'avaro resta avaro tutta la vita, si consuma l'avarizia. L'iracondo non esce mai dalla gabbia della propria ira. L'accidioso, ma anche il goloso alla fine, si consuma, si ingrassa, esplode, trasuda grasso. Invece tutti a dirmi, la lussura, pratico la lussura. Poi c'è una ipocritissima ascoltatrice, non dico il nome. Sì, però alla maniera del Cantico dei Cantici. Quindi lussuriosa però deve essere angelicata, deve essere trattata sempre con alte metafore. Andiamo invece a Stefania, che spero che mi sorprenda sulle sue viziose pratiche. Stefania, buongiorno. Buongiorno. Parlami di tuoi vizi. Difficile sorprenderla perché ha esplicato molto bene in profondità i vizi. Ma lei in cosa si sente viziosa, figliola? In tutto. Non può essere mancante nella vita. Ma lo pratica preferibilmente da sola o con altri? No, con altri. Se ho, diciamo così, giocatori, mi piace essere partecipe insieme, insomma. Cioè, quale gioco fa lei in collettività? Ma, guardi, io mi occupo di vino. Di vino? Sì. E quindi mi ritrovo a parlare con persone che vogliono un segmento nella loro vita che possa uscire da quello che sono. Quindi lei dispensa segmenti al prossimo? Prego? Dispensa segmenti piacevoli? Assolutamente sì, sì sì. Ma qual è il vizio? Qualcosa simile alla gola se parla di vino, penso. In questo caso la gola, sicuramente. Lei poi ha parlato di lussuria, che è bella nel momento in cui viene goduta e poi si è appagata, poi passa. È una gola lussuriosa, insomma. Anche quello, sì. Allora, Stefania, mi sembra completo il quadro, l'assolvo senz'altro perché non trovo che sue siano colpe che gridano vendetta al cospetto di Dio. Luca, buongiorno. Buongiorno. No, scusate, stamattina ero entrato nella parte del Salesiano, ritorniamo a fare il conduttore. Luca, qual è il vizio che pratichi? Allora, penso di aver sperimentato nella mia vita tutti i vizi in qualche momento. Anche le vanitas, che è l'ottavo vizio che è scomparso. Soprattutto, nel senso che poi ce n'è uno in cui cerco di non indulgere. Qual è? Perché lo trovo il peggiore. Perché fa male alla vista? No, l'invidia. Ah, l'invidia. Decisamente. Trovo che nel concatenarsi dei vizi l'invidia abbia in sé tutti gli altri vizi capitali. E come si combatte l'invidia? No, questo è importante. L'invidia perché ti aggredisce alle spalle e te ne liberi difficilmente. È una cosa che colpisce perché diciamo la sento, la provo, e nel momento in cui questo accade mi rendo conto che mi rende iracondo, perché sono irato in quanto invidio qualcosa che non ho, provo l'invidia come un appetito insaziabile di qualcosa. Posso darle un manca. Consiglio? Certo. Ma guardi, da semplice frequentatore dei vizi, banalmente frequentatore dei vizi, l'invidia può essere combattuta non razionalmente, perché come si fa a dire non essere invidioso di quello che è figo, ricco, c'ha un sacco di donne, è vincente, tu ti senti perdente. Cominciare a osservare attentamente l'oggetto della propria invidia e cominciare a vederne i punti deboli, tipo sì è bello ma che ne so, c'ha l'alito cattivo, oppure sì sembra tanto fortunato ma guarda c'ha le corna lunghe che gli si vede a un chilometro. Cominciare a individuare anche forzando la mano, inventando dei limiti grotteschi e infamanti rispetto all'oggetto della nostra invidia, lentamente scompare, almeno ci si prova. Diventerebbe in qualche modo una superbia, credo, nel voler vedere qualcosa di migliore in sé rispetto. Però a già è un vizio sul quale si può ragionare la superbia, però. Se, infatti, l'invidia purtroppo, invece secondo me, è proprio la razionalità, che nel momento in cui... Sì, l'invidia è brutta, perché l'invidia uccide, spegne, avvizzisce e soprattutto rende impraticabili i vizi più divertenti, come la gola, come la lussura. Grazie Luca. Adesso, visto che abbiamo iniziato questa trasmissione con uno spunto iconografico, con la mostra che si fa oggi alla Biblioteca Angelica sui vizi capitali. Pensate, Biblioteca Angelica, vizi capitali, rappresentati nelle sculture viziosissime di Carlo Previtali, io volevo ritornare alla rappresentazione iconografica dei vizi. I vizi hanno sempre avuto una raffigurazione, dalla contemporanea raffigurazione dei personaggi dello star system, del giornalismo, della fighetteria televisiva, che nei settimanali estivi rappresentano ognuno il capostipite dei vizi, alle più classiche iconografie. Ho al telefono Chiara Frugoni. Chiara Frugoni, buongiorno. Medievista, autrice de L'affare migliore di Enrico, Giotto e la Cappella Scrovegni, edizioni Einaudi. Vorrei partire da una classicissima e conosciutissima rappresentazione delle pene infernali e dei vizi capitali, che è appunto la Cappella Scrovegni con gli affreschi di Giotto. Sì, nella Cappella Scrovegni però ancora non c'è una divisione perfetta dei vizi, dei sette vizi capitali. Questa in realtà c'è un po' più tardi nel Camposanto di Pisa, ed è da lì che parte proprio iconograficamente la divisione dei sette vizi. Però quello che vorrei sottolineare è che nel Medioevo i vizi sono sentiti come peccati, quindi in un quadro sempre religioso, cosa che per noi non è assolutamente più, e che sono cambiati, nel senso che c'è l'idea di un vizio principale che è la radice di tutti e che per esempio nel mondo feudale era l'avarizia, e quindi la virtù migliore, scusi, era la superbia, perché era un mondo appunto feudale, e quindi la virtù migliore era invece l'umiltà, quella dei monaci, mentre invece in una società mercantile come è quella per esempio del 300 il vizio capitale è sentito l'avarizia e la virtù migliore è la carità. Anche perché si era molto più di manica larga in quei tempi rispetto a quelli oggi che vengono considerati i vizi per eccellenza. Io, guardi, mi illumina quello che lei dice, perché sfogliando i giornali questi giorni sembra che improvvisamente tutte le migliori penne del giornalismo nazionale, ma negli ultimi mesi, siano diventati dei grandi censori, sembrano quasi dei Savonarola che gridano dalle loro colonne contro l'imbarbarimento dei costumi sessuali, come se la lussura fosse veramente oggi la più detestabile delle colpe dell'uomo contemporaneo. Ma a quei tempi... Quale lussuria? Perché per esempio, la lussuria comprende anche la pedofilia, che è naturalmente certo. Tutta la pena per chi ne è vittima, ma certo, guardi, è un problema molto grave. Quando entriamo in questi campi così patologici, non oserei dare dignità di lussuria a quello che è un atteggiamento vessatorio, violento, crudele e ingiusto nei confronti di un essere umano. Se noi parliamo dal punto di vista della Chiesa, perché questo è... altrimenti non si parla di vizio nel senso sempre di peccato, perché altrimenti è inutile parlare di vizi. Oggi lei non trova che ci sia una morale laica che ormai ha perso il senso di trascendenza legato alla colpa, e che comunque ha una condanna a priori per comportamenti irregolari, secondo non sa quale canone, non lo so. Ma io direi che ha dei comportamenti veramente molto convenzionali e molto ipocriti e sempre molto maschilisti, perché per esempio io non vedo perché non ci si sbracci a pensare se uno va con delle prostitute e invece si sbracci moltissimo se va con dei trans. Che differenza c'è? Ma rientra però in quello che sta dicendo lei, nella sovrascrittura che si fa nelle epoche dei comportamenti viziosi. Certo, ma quello che è interessante, che è appunto era interessante anche nel Medioevo, è che la contemplazione dei vizi ci dà uno spaccato sulla società, cioè perché questi peccati nel Medioevo erano sentiti tali? Perché mettevano in pericolo la società, e la Chiesa cercava attraverso questo, e lo sottolineo, non c'è nessuna base scritturale sui peccati, cioè né nell'Antico Testamento né nel Nuovo si trova nulla a proposito di questi peccati. Sì, abbiamo spiegato prima con Stefano Morigi qual è la genealogia e le gerarchie cambiano nei tempi, cambia la gerarchia dei vizi. Ecco, comincia con Gregorio Magno, quindi insomma questo va anche sottolineato, cioè Cristo non ha mai detto niente sul problema dei peccati. Però diciamo, tornando all'aspetto iconografico, per un artista sì, è facile ispirarsi e dare rappresentazioni concrete in figure umane, in figure storiche, personaggi che lui vuole anche denigrare. È noto l'episodio degli Scrovegni in cui viene rappresentato il committente che voleva salvarsi l'anima facendo fare questa opera d'arte, ma però è stato indegnamente rappresentato. No. Il mio libro proprio cerca invece di cambiare assolutamente questa vecchia... Ah, è una leggenda, ma allora ce la riporti nei termini. Lo Scrovegni era un uomo contentissimo di sé, non c'è nessuna idea, lui pensava di avere fatto un grande dono con questa cappella ai cittadini, anche perché aveva ottenuto per i padovani un'indulgenza plenaria, e in realtà è un'autoglorificazione, perché non a caso lì c'è un grandissimo spazio dato a Gioacchino, perché è il padre della Madonna, per il fatto che Dio gli dice: tu sei un ricco che usi molto bene le tue ricchezze, una parte per te, una parte per i poveri e una parte per il tempo. Quindi è molto interessante quello che dice lei, Chiara Furgoni, rispetto a usare comunque con un fine nobile e rispettabile la tabellina dei vizi come elemento di monito parametrato e regolato a seconda di quelle che sono le crisi del tempo in cui si attraversa. Cambiano i vizi, cambia la percezione dei vizi, ma rimane sempre un'arma potentissima da impugnare nei confronti dei presunti viziosi, perché mettono a repentaglio, in crisi, quella che è l'armonia e la compattezza della società in cui si produce il castigatore di vizi. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. 800 24 00 24. Stiamo facendo il punto sulla percezione contemporanea dei vizi capitali. Ne abbiamo sentito parlare ai tempi del catechismo, ne abbiamo risentito parlare, chi di noi ha fatto comunque l'iter necessario per un cristiano matrimonio, ne sente parlare continuamente chi ha una costante e invidiabile pratica religiosa. Ma quello che bisogna tener conto, che stiamo dicendo con il nostro ospite questa mattina, della continua sovrascrittura dei vizi capitali. Parliamo questa mattina di vizi capitali in occasione di una singolare e paradossale mostra che si inaugura proprio oggi a Roma, dello scultore Carlo Previtali, che ha raffigurato plasticamente i vizi capitali, secondo una sua moderna lettura, e li espone nella Biblioteca Angelica a Roma. Andrea D'Agostino, alla luce della lettura delle iconografie passate, hai qualcosa da aggiungere rispetto alle mostre che oggi rappresenteranno l'implacabile testimonianza della percezione contemporanea dei vizi? No, credo che anzi Previtali abbia voluto dire la sua con queste sculture, come dicevo prima, quindi portando all'eccesso quasi i loro tratti peculiari, però semplicemente rifacendosi ad una iconografia abbastanza classica, quindi figure umane ovviamente, ciascuna che simboleggia il vizio che rappresenta, ma in questo senso si inserisce in questo filone appunto che era già partito da Giotto, come ricordava la professoressa Furgoni poco fa, e che poi prosegue per tutta la storia dell'arte, anche se poi ci sono stati dei periodi in cui comunque i vizi sono stati meno rappresentati, come dire che soprattutto ora che ci avvicina in questi ultimi tempi, quasi non fanno più, non sono più di moda. Diventano materia di trattazione giornalettistica. Esatto. Se ne parla come condizioni divertenti dell'esistenza, ma non più come colpa. Ad esempio, pensavo alla gola. Oggi, se entriamo in libreria, in un'edicola, siamo circondati da libri di cucina, da riviste che propongono nuove ricette. Slow food, il piacere del gusto, i gamberi rossi. Per non parlare della lussuria, poi, per cui voglio dire. C'è il problema inverso: ci sono stimolanti che dovrebbero far rinascere un minimo di lussura negli stanchi lombi degli esseri umani. Stefano Morigi, aggiungiamo qualcosa rispetto a chi sono oggi i compilatori delle gerarchie di vizi. Guarda, noi abbiamo citato i giornalisti, i cronisti, i personaggi della televisione, artisti ma con un forte senso comunque della appartenenza a un loro libero pensiero. Non esiste più un classificatore ufficiale di vizi come quelli che tu hai elencato all'inizio della trasmissione? Nel senso più tradizionale potremmo ancora indicare i teologi, in un senso ma la loro voce non arriva quanto arriva la voce di chi di Novella 2000 o di oggi che fanno le rappresentazioni dei vizi contemporanei. Infatti, in un senso forse meno tradizionale i miei colleghi, cioè i filosofi, ma i più insospettabili riscrittori e quindi indicatori dei vizi contemporanei sono le stesse persone che li incarnano, forse in maniera consapevole, e la mostra di Previtali, la nostra trasmissione, la riflessione di molti altri può rappresentare un'occasione profonda per rileggere nello scarto che c'è tra la norma etica condivisa, accolta da una società, eccetera, e la sua violazione, tra la morale e il vizio, per l'appunto, quello scarto che racconta le debolezze di ciascuno di noi, chiamiamoli così nel senso più lato del termine, e in quelle debolezze si riesce a raggiungere e a leggere un'autenticità che dice molto del nostro modo di percepire il piacere, il dolore, la colpa. La professoressa Frugoni prima faceva un'interessante osservazione circa lo slettamento dal concetto di vizio a quello di peccato, così come è avvenuto nel Medioevo. Nel conformismo che tu richiamavi prima e che i giornali non fanno altro che alimentare, c'è un rischio che poi il dal vizio al peccato e il peccato diventi addirittura un reato. Ecco, questo è un margine molto pericoloso. Al di là di condotte effettivamente pericolose, conservare il vizio nell'ambito della morale e non farlo precipitare in quello della legge è una difesa delle nostre debolezze e della nostra libertà di peccare. Scusa se interrompo Stefano, ma ho quattro penitenti in questo momento che stanno facendo la fila pronti a confessarsi. Iniziamo per dovere da Gloria. Gloria, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei ha sperimentato tutti i vizi? Naturalmente, ho anche un'età, dopo i 50 anni posso dire sinceramente di averli sperimentati tutti, però il mio preferito è l'accidia, anche perché rimanere qua la mattina alla radio, ascoltare lei, mi prendo degli appunti, non posso passare il moccio. Ma non lo sente come un peccato di lussuria? Sì, in fondo è la mia lussuria, in fondo è anche no, perché questo mi conforta, dà un senso alla mia esistenza. Ascoltavo questa bella cosa di Blaise Pascal, poi ho aperto il Devoto Oli a vedere Accidia perché non avevo ben presente. Quindi non sapeva prima adesso che lei praticasse l'Accidia? No, beh, vagamente, però poi trovi dei termini che sono calzanti. Senta Gloria, no, siccome io devo incidere, no, lei divaga sul culturale, ma io voglio entrare nell'aspetto concreto. Di tutti i vizi che ha praticato nella sua lunga carriera viziosa, qual è quello che le dà più rimpianto e meno senso di colpa? Più rimpianto e meno... Sa che dovrei ripassarli, perché sì, non ne ho tutto... senso, dico, non li ho davanti agli occhi tutti. Penso che di non averne nessuno. Quindi è contenta di aver viziosamente vissuto questi primi 50 anni della sua vita? Beh, direi di sì. Vabbè, l'assolvo, va bene. Luca? Sì, intanto non sono un peccatore, non mi sento tale. Però qualche vizio lo definisca almeno nelle accezioni comunemente condivise. Ma guarda, secondo me, se posso darti del tu. Sì, sì, vabbè, figurati. Ok, allora, secondo me il vizio non esiste, nel senso che una persona fa le cose che deve fare e la differenza è solo lo spirito col quale le fa. Ho capito, ma visto che esiste, ci atteniamo a un canone scritto che vengono chiamati sette pratiche umane, vizio capitale, quale pratichi, in che maniera le pratichi e con quanto gusto le pratichi? Guarda, io... Il vizio è non fuggire all'esame di coscienza, però ma è molto grave. Allora, dai. Guarda, il vizio è scritto da qualcuno che sì, non sei tu. Ho capito, però dal momento perché che qualcuno l'ha scritto, quello è un vizio. Beh, e se dicessi c'è una camicia rossa, e indubbiamente ci sia una camicia rossa. Dico, esiste lussuria, ira, accidia, gola. Di questi, quali pratichi e con quanto piacere? Ma guarda, io vivo la vita semplicemente come dovrebbero fare tutte le altre persone, non si tratta di vizio o non vizio. Vorrei fare però una distinzione fra etica e morale. Una persona tu devi parlare del tuo vizio, non ne vuoi parlare. Il tuo vizio è fuggire dall'esame di coscienza, quindi vieni segato, addio. Antonio. Buongiorno. Attenzione perché la motosega può rientrare in funzione ogni istante. Antonio, sinceramente elenca i tuoi vizi, non fare come l'ascoltatore precedente che la buttava sul filosofico. Filosofo lo fa il prete, lo faccio io. Nessuna filosofia, io indulgo sulla gola sicuramente. Bravo. Questo e la vita purtroppo mi ha portato da essere generoso altruista a diventare un po' avaro, quello sì. Però un flash, se me lo consenti, era sulla classificazione dei peccati. Dante Alighieri ti dà ragione. Perché il primo girone infernale, cioè quello più lontano del Lucifero, è proprio lussuriosi. E l'ultimo cerchio del purgatorio, quello più vicino a Dio, è dei lussuriosi. Quindi lussuria... Vabbè, non ci ho capito niente, fai una gran confusione. Tutti volete buttarla, naturalmente. Ivano. Buongiorno. Niente, io volevo parlare della lussuria. Parla del tuo vizio, ma velocemente, devo chiudere la trasmissione. Condensalo. È un vizio che, niente, ho praticato molto e sto ancora praticando. Lavoro molto nei locali notturni, discoteche e quant'altro. E quindi? E mi capita di incontrare molte donne. E mi capita di farci molto spesso sesso, anche con più di una. Sì, ma questo vale a raccontare a qualcun altro. Guarda, la palloneria è un vizio che non viene contemplato nell'elenco dei vizi capitali, perché, come dicono a Perugia, che è un detto che è alla radice di tutto il sapere dell'umanità, chi il fa nel dice, chi il dice in campa. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Radio 24. La passione si sente.